Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Allora, vi ricordo come sempre il nostro sito radio24.it. Lì troverete la possibilità di scaricare anche via podcast tutte le trasmissioni. Potete ascoltarle in qualunque momento. Quindi se vi perdete l'orario delle 6.45 in cui andiamo in onda, poi andate sul sito e potete sentire qualunque trasmissione in qualunque momento del giorno. Potete abbonarvi e potete anche leggere i profili dei conduttori con relativi blog per coloro i quali li hanno. Io ne ho uno, lo conoscete bene, si chiama Guardie o Ladri. Lo seguite molto, di questo vi ringrazio, e quindi continuate a scrivermi sul blog e a commentare ciò che scrivo, mi farà piacere. Allora, ultima informazione, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Devo tirare le orecchie ancora una volta a qualche radioascoltatore che ci chiama, ci contatta, troviamo i casi interessanti, andiamo a parlare con la controparte, colui o colei la quale o l'istituzione che viene chiamata in causa per un abuso perpetrato oppure che si crede essere stato commesso, e poi quando magicamente noi contattiamo la controparte, guarda caso, le soluzioni si trovano e quindi i radioascoltatori fanno marcia indietro. No, non siamo, non sono una buca delle lettere. Questo atteggiamento, lo dico a coloro i quali fanno un passo indietro, non mi piace. È bene che ci sia schiettezza e correttezza tra un conduttore e i propri radioascoltatori. Io vi amo, vi seguo, voi seguite me, però per piacere la correttezza e la trasparenza innanzitutto. Lo sapete che della legalità ne faccio un punto d'orgoglio e della correttezza delle regole. Detto questo, andiamo ad un caso abbastanza insolito, perché abbiamo rincorso l'amministrazione comunale per una vita, alla fine non c'è stato niente da fare, ma introdurremo anche questo argomento. Allora, qual è il caso? Il caso di un ennesimo abuso supposto dell'uso dell'autovelox. Ci troviamo in una località famosa a Roma, Torre in Pietra, a 20 km dalla capitale. Il comune è il comune però di Fiumicino. Un comitato di cittadini ha smosso mari e monti affinché ci si occupasse di questo caso. Devo dire che molte trasmissioni radiofoniche, molti giornali, molte TV lo hanno fatto, ma questo comitato di cittadini è bello vispo e allegro e quindi continua a martellare su quello che ritiene essere un abuso nei loro confronti. E per parlare quindi di questo abuso da autovelox che va di moda, no? Abbiamo seguito anche molti scandali che ci sono stati ultimamente in varie città, noi abbiamo chiamato a parlare Valerio Guagnelli Scanzani, che è uno degli automobilisti e radioascoltatori più incarogniti contro l'amministrazione comunale di Fiumicino. Buongiorno Scanzani. Buongiorno a lei. Io uso soltanto un cognome, l'ultimo, perché altrimenti sembra quei film in cui Serbelloni, il conte, no? Si ricorda con mille cognomi. Quindi Scanzani, allora ci dica che cosa sta succedendo da voi. Dunque, la questione è un po' articolata, perché è articolato il comune di Fiumicino, nel senso che non è un comune territorialmente circoscritto in modo regolare, ma è esteso su un territorio molto, molto strano. Vabbè, ma questo è comune a migliaia di comuni italiani, scusi il gioco di parole, quindi questa qui è una cosa normale che sia un'orografia diversa comune all'altro. Ma andiamo a vedere che cosa succede. Ma non tutti i comuni sono così, però alcuni sono molto circostanti. Sì, quindi, certo. Adesso vabbè. Succede che praticamente sono stati installati diversi autovelox da parte del comune, come vicino appunto dove è sede anche l'aeroporto, no? Sì. E sono stati installati diversi autovelox, rilevatori, insomma, come li vogliamo chiamare, e anche in località dove sull'Aurelia, soprattutto sulla strada statale Aurelia, ma anche in prossimità dell'aeroporto, e sono cominciate a fioccare multe a non finire. Allora, persone che hanno preso 20-30 multe. Allora, diciamo una cosa, che il codice della strada va rispettato, punto primo. Punto secondo, però non bisogna abusarne. Punto terzo, il comune lo usa oramai sempre di più, non il comune di Fiumicino in generale, come un modo per fare cassa. Da un articolo che leggo su l'edizione romana di Repubblica, sono circa 30 milioni di euro che potrebbe incassare il comune di Fiumicino da questi autovelox. Ma voi che cosa contestate al comune di Fiumicino? Beh, noi noi dunque contestiamo innanzitutto, direi la prima cosa da notare è una cosa da un punto di vista proprio filosofico, diciamo così, teorico, nel senso che intanto già si è costituito un comitato. Ma questo qui l'abbiamo capito, ma che cosa contestate? Gli ho chiesto. Praticamente l'installazione di questi autovelox in questi punti incriminati non è fatta a fronte per salvaguardare il fenomeno infortunistico, come prescritto dalla filosofia proprio dell'installazione dell'autovelox, del controllo del limite di velocità, ma quindi è una finalità diversa. Lei dice per fare cassa. Questa critica è fondata su dati oggettivi, cioè è fondato su tabelle di incidentalità che sono pubblicate dal comune stesso. Quindi tabelle che dicono cosa? Nei punti dove abbiamo mosso le critiche è inesistente oppure uno o due incidenti l'anno non mortali. Benissimo, quindi, allora il caso è chiarissimo. Noi abbiamo contattato il comune di Fiumicino, l'abbiamo assolutamente rincorso. Alla fine, dopo tanti tira e molla, l'assessore alla vigilanza urbana del comune Giancarlo Petrarca ci ha detto no, non partecipo perché la giunta così mi ha chiesto, perché abbiamo deciso di non rispondere più alle critiche, è tutto chiaro. Quando noi abbiamo fatto presente che tanto chiaro non è, perché continuano le critiche, che il compito della politica è quello di rispondere ai propri cittadini, ai propri elettori, la risposta di Petrarca è stato, da sommo poeta potrei dire, è stata no, è tutto chiaro, i cittadini, soprattutto i cittadini di quei tratti stradali, ci ringraziano, non abbiamo più nulla da dire, tutto chiarissimo. Modo strano di intendere la democrazia e la dialettica, anche la dialettica con chi ha eletto queste persone. Io lo dico sempre, trovo veramente scandaloso quando si rifiuta il dialogo. Un conto sono le trasmissioni con delle tesi precostituite, ci sono tanti miei colleghi che lo fanno, un conto è una trasmissione come questa in cui noi mettiamo sempre il pro e il contro a dibattere. Rimango stupito, non è questo a mio giudizio il compito della politica. A Petrarca abbiamo detto che avrei detto questo in radio, lo dico e lo confermo, bisogna confrontarsi con la gente, soprattutto quando è gente che vota. Allora, comandante Scotti, istituzione del Sole 24 Ore, comandante della Polizia Municipale di Monza, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Allora, che cosa ne pensa di questa supposta vessazione, perché ovviamente ci manca poi la controparte, abbiamo cercata, nei confronti dei cittadini di Fiumicino? Ecco, io mi sono documentato come ho potuto andando a verificare delle fotografie che ho trovato su internet, certo. E in alcuni casi ho notato che i segnali sono ben messi, poi però dovremo aprire una parentesi su questi segnali ben messi. In alcuni casi invece da alcune visuali prospettiche risultano occultati e quindi difficilmente percepibili. Questo prima ancora che essere una condizione di legittimità dell'autovelox, cioè una condizione di sicurezza dell'utente, certo, che deve sapere che lì esiste un determinato limite. Dopodiché ricordo anche che, probabilmente lo ascoltatore lo saprà già, che comunque su questo spinoso argomento è intervenuto il Ministro dell'Interno in data 14 agosto 2009 con una circolare esplicativa, dove all'inizio della circolare si dice chiaramente che l'obiettivo dell'azione di contrasto agli eccessi di velocità è quello della diminuzione dei sinistri stradali e non certo quello di fare cassa. Poi credo che bisognerebbe aprire un ragionamento, ma su questo non sono in grado di farlo perché non conosco la strutturazione delle strade, dovrei andare lì sul posto per capirlo, capire se i limiti di velocità imposti sono corretti, perché non sempre un limite di velocità basso è corretto, perché ci sono anche situazioni dove esistono dei limiti eccessivamente bassi e questi, nel caso di rispetto di questi limiti, addirittura aggraverebbero le condizioni di pericolosità. Ecco, allora lei è stato correttissimo, ha spiegato molto bene, e così come il nostro radioascoltatore Guagnelli Scanzani ha spiegato quello che sta accadendo a Fiumicino. Io dico, ma non sarebbe stato bellissimo, scusate il superlativo assoluto, se noi ci fossimo confrontati con gli amministratori di Fiumicino, perché altrimenti rimane valido il sospetto, tutto da chiarire, sul fatto che le amministrazioni, quindi in questo caso quello di Fiumicino, utilizzino questi autovelox per fare cassa. Se sono vere le stime fatte da Repubblica di 30 milioni, insomma 30 milioni per un comune come quello di Fiumicino sono tantissimi e quindi non trovo corretto un atteggiamento eventualmente vessatorio. Il nostro comune ha rifiutato, ma le nostre radio, la nostra radio è sempre aperta al confronto, quindi grazie ai nostri ospiti, in regia Valeria Bernardi, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.